سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. صاد والقرآن ذي الذكر. Saad, per il Corano che contiene il monito. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. Sono i miscredenti ad essere nell'orgoglio e nello scisma. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. Quante generazioni abbiamo annientato prima di loro? Lanciarono grida d'aiuto quando non c'era più tempo per sfuggire al castigo. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. Essi stupiscono che sia giunto un ammonitore della loro gente. I miscredenti dicono: è uno stregone, un gran bugiardo. Aja'ala al-alihata ilahan wahida. Inna hadha la shay'un 'ujab. Ridurrà forse gli dèi ad un Dio unico? Questa è davvero una cosa strana. وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ. E i notabili se ne andarono dicendo: andatevene e rimanete fedeli ai vostri dèi, questa è davvero la cosa più augurabile. Ma sami'na bi hadha fil millati l'akhirati in hadha illa ikhtilaq. Non sentimmo niente di ciò nell'ultima religione. Si tratta di pura invenzione. أُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ. È solo su di lui che sarebbe stato fatto scendere il monito? Sono perplessi a proposito del mio monito. Non hanno ancora gustato il mio castigo. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. Hanno forse i tesori della misericordia del tuo Signore, l'Eccelso, il Munifico? أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. O posseggono la sovranità dei cieli e della terra

tutti li travierò. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Eccetto quelli fra loro che sono tuoi servi protetti. Qala fal haqq wal haqq aqul. Allah disse: questa è la verità. Io dico in verità che لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. Che riempirò l'inferno di te e di tutti quelli di loro che ti seguiranno. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. Di, non vi chiedo ricompensa alcuna, né sono fra coloro che vogliono imporsi. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Questo non è che un monito per le creature. E tra qualche tempo ne avrete certamente notizia.